Certo non so che, non so che, e sento in mezzo al cuore, mi sento in mezzo al cuore, che punto di dolore, che punto di dolore, ma mi tormenta, ma mi tormenta. Un certo non so che, non so che, mi sento in mezzo al cuore, e torno. Thank you.